tua bella. Giura che ti ricordi, zio, cambia stazione. Ascolti me, non ti vergogni. Mi hai criticato tanto, adesso mi ritrovi. Stessa faccia da perdente, ma un talento che ti sogni. Piacere, Daniele, e già non sai più chi sono. Eppure avrei giurato che mi conoscessi bene. Sta a vedere che mi conosci solo tramite suono. E le tue critiche personali, polvere da cantiere. Se rappo sui campioni, perché sto sopra i migliori. Se da dentro vado fuori, perché rappo con i fiori. Seguo l'istinto, mi butto convinto in stili canori. Se rappo con te che hai perso, allora rappo convinto. Sfiori il mio livello, ma mi copi l'argomento. Fate l'argomento solo, in questura non la contento. Salgo dentro, canto in vento, è solo passione. Valgo 100, valgo 0, non è questione di money. Quante volte mi hai negato il tuo rispetto? Le basi in progetto, il posto nella compilation. Però l'ammetto, sto ancora disposto a collaborare, ma prima me la devi succhiare. Quante volte mi hai negato il tuo rispetto? Le basi in progetto, il posto nella compilation. Però l'ammetto, sto ancora disposto a collaborare, ma prima me la devi succhiare. Sono fatto all'antica, che Dio mi maledica. A volte 100 cazzi in testa, fianco manco una figa. Perché nessuno equivale a quello che cerco. Ormai qua si fa dura, qua si stringe troppo il cerchio. Se tipe non capiscono, non sanno come prendermi. Sanno solo come prenderlo, non sanno più sorprendermi. E no che non mi apre, adesso è tardi, c'è rancore. Col cazzo non si degna, non mi fotti l'emozione. Non mi chiamare più amore, non ti amo. Non mi parlare per dirmi ti chiamo. Non putogliare che poi litighiamo. Ma davanti tempo che dimentichiamo. Non sono il tipo da pacca al sedere. Non il tuo tipo, ma ti posso avere. Non mi beccare di fare sul bere. Non mi sei cara, mi sei più biniere. Quante volte mi hai negato il tuo rispetto? Tu fuori dal mio letto hai distrutto ogni progetto. Però l'ammetto, sto ancora disposto a ricominciare, ma prima me la devi succhiare. Quante volte mi hai negato il tuo rispetto? Tu fuori dal mio letto hai distrutto ogni progetto. Però l'ammetto, sto ancora disposto a ricominciare, ma prima me la devi succhiare. Sì, sì, sì, sì, sì. Me la devi succhiare. Me la devi succhiare, succhiare, succhiare. Me la devi succhiare, ma prima me la devi succhiare. Sai cosa fa? Me la devi succhiare. Me la devi succhiare, succhiare, succhiare. Me la devi succhiare, ma prima me la devi succhiare.